Terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Queste marce sul filo del rasoio erano sospese del tutto per il momento, insieme agli altri pensieri, nell'arcaicità odorosa della campagna, se così potevano chiamarsi i luoghi nei quali si trovava così spesso a cacciare. Nel termine campagna è implicito un senso di terra trasformata dal lavoro. La boscaglia, invece, aggrappata alle pendici di un colle, si trovava nell'identico stato di intrico aromatico nel quale la avevano trovata Fenici, Dori e Ioni quando sbarcarono in Sicilia, quest'America dell'antichità. Le improvvise soste pensose dei cani, la loro patetica tensione in attesa della preda, era identica a quella dei giorni in cui per la caccia si invocava Artemide. Ridotta a questi elementi essenziali, col volto lavato dal belletto delle preoccupazioni, la vita appariva sotto un aspetto tollerabile. Poco prima di giungere in cima al colle, quella mattina, Arguto e Teresina iniziarono la danza religiosa dei cani che hanno presentito la selvaggina. Strisciamenti, irrigidimenti, caute alzate di zampe, latrati repressi. Dopo pochi minuti un culetto di peli bigi guizzò fra le erbe. Due colpi quasi simultanei posero termine alla silenziosa attesa. Arguto depose ai piedi del principe una bestiola agonizzante. Era un coniglio selvatico. La dimessa casacca color di creta non era bastata a salvarlo. Orrendi squarci gli avevano lacerato il muso e il petto. Don Fabrizio si vide fissato da due grandi occhi neri che, invasi rapidamente da un velo glauco, lo guardavano senza rimprovero, ma che erano carichi di un dolore attonito rivolto contro tutto l'ordinamento delle cose. Le orecchie vellutate erano già fredde, le zampette vigorose si contraevano in ritmo, simbolo sopravvissuto di una inutile fuga. L'animale moriva torturato da un'ansiosa speranza di salvezza, immaginando di poter ancora cavarsela quando di già era ghermito, proprio come tanti uomini, mentre i polpastrelli pietosi accarezzavano il musetto misero. La bestiola ebbe un ultimo fremito e morì. Ma Don Fabrizio e Tomeo avevano avuto il loro passatempo. Il primo, anzi, aveva provato, in aggiunta al piacere di uccidere, anche quello rassicurante di compatire. Quando i cacciatori giunsero in cima al monte, di fra i tamerici e i sugheri radi apparve l'aspetto vero della Sicilia, quello nei cui riguardi città barocche ed aranceti non sono che fronzoli trascurabili, l'aspetto di un'aridità ondulante all'infinito, in groppe sopra groppe, sconfortate e irrazionali, delle quali la mente non poteva afferrare le linee principali, concepite in una fase delirante della creazione. Un mare che si fosse pietrificato in un attimo, in cui un cambiamento di vento avesse reso dementi le onde. Donna Fugata, rannicchiata, si nascondeva in una piega anonima del terreno e non si vedeva un'anima. Sparuti filari di viti denunziavano soli un qualche passaggio di uomini. Oltre le colline, da una parte, la macchia indaco del mare, ancor più duro e infecondo della terra. Il vento lieve passava su tutto, universalizzava odori di sterco, di carogne e di salvie, cancellava, elideva, ricomponeva ogni cosa nel proprio trascorrere noncurante. Prosciugava le goccioline di sangue, che erano l'unico lascito del coniglio, molto più in là, andava ad agitare la capelliera di Garibaldi e dopo ancora cacciava il pulviscolo negli occhi dei soldati napoletani che rafforzavano in fretta i bastioni di Gaeta, illusi da una speranza che era vana, quanto lo era stata la fuga stramazzata della selvaggina. Nella circoscritta ombra dei sugheri il principe e l'organista si riposarono. Bevevano il vino tiepido delle borracce di legno, accompagnavano un pollo arrosto venuto fuori dal carniere di Don Fabrizio con i suavissimi muffoletti cosparsi di farina cruda che Don Ciccio aveva portato con sé. Degustavano la dolce insolia, quell'uva tanto brutta da vedere quanto buona da mangiare. Sotto il sole costituzionale Don Fabrizio e Don Ciccio furono poi sul punto di addormentarsi. Ma se una fucilata aveva ucciso il coniglio, se i cannoni rigati di Cialdini scoraggiavano già i soldati napoletani, se il calore meridiano addormentava gli uomini, niente invece poteva fermare le formiche. Richiamate da alcuni chicchi di uva stantia che Don Ciccio aveva risputato via, le loro fitte schiere accorrevano, esaltate dal desiderio di annettersi quel po' di marciume intriso di saliva di organista. Come conseguenza di alcune associazioni di idee che non sarebbe opportuno precisare, l'affaccendarsi delle formiche impedì il sonno a Don Fabrizio e gli fece ricordare i giorni del plebiscito quali egli li aveva vissuti poco tempo prima a Donna Fugata stessa. Oltre ad un senso di sorpresa, quelle giornate gli avevano lasciato parecchi enigmi da sciogliere. Adesso, al cospetto di questa natura che, tranne le formiche, se ne infischiava evidentemente, era forse possibile cercare la soluzione di uno di essi. I cani dormivano distesi, appiattiti come figurine ritagliate. Il coniglietto, appeso con la testa in giù ad un ramo, pendeva in diagonale sotto la spinta continua del vento. Ma Tumeo, aiutato in questo dalla sua pipa, riusciva ancora a tenere gli occhi aperti. «E voi, Don Ciccio, come avete votato il giorno 21?» Il pover'uomo sussultò. Preso alla sprovvista, in un momento nel quale si trovava fuori del recinto di siepi precauzionali, nel quale si chiudeva di solito come ogni suo compaesano, esitava, non sapendo come rispondere. Il principe scambiò per timore quel che era soltanto sorpresa e si irritò. «Insomma, di chi avete paura? Qui non ci siamo che noi, il vento e i cani». La lista dei testimoni rassicuranti non era a dir vero felice. Il vento è chiacchierone per definizione. Il principe era per metà siciliano. Di assoluta fiducia non c'erano che i cani, e soltanto in quanto sprovvisti di linguaggio articolato. Don Ciccio però si era ripreso, e l'astuzia paesana gli aveva suggerito la risposta giusta, cioè nulla. «Scusate, eccellenza, la vostra è una domanda inutile. Sapete già che a Donna Fugata tutti hanno votato per il sì». Questo Don Fabrizio lo sapeva, infatti, e appunto perciò la risposta non fece che trasformare un enigma piccolino in un enigma storico. Prima della votazione molte persone erano venute da lui a chiedere consiglio. Tutte sinceramente erano state esortate a votare in modo affermativo. Don Fabrizio, infatti, non concepiva neppure come si potesse fare altrimenti, sia di fronte al fatto compiuto come rispetto alla teatrale banalità dell'atto, così di fronte alla necessità storica, come anche in considerazione dei guai nei quali quelle umili persone sarebbero forse capitate quando il loro atteggiamento negativo fosse stato scoperto. Si era accorto però che molti non erano stati convinti dalle sue parole. Era entrato in gioco il machiavellismo incolto dei siciliani, che tanto spesso induceva in quei tempi questa gente, generosa per definizione, ad erigere impalcature complesse fondate su fragilissime basi. Come dei clinici abilissimi nelle cure, ma che si basassero su analisi del sangue e delle urine radicalmente erronee, i siciliani di allora finivano con l'uccidere l'ammalato, cioè loro stessi, proprio in seguito alla raffinatissima astuzia che non era quasi mai appoggiata a una reale conoscenza dei problemi, o perlomeno degli interlocutori. Thank you. Alcune delle persone che avevano compiuto il viaggio ad limina Gattopardorum stimavano cosa impossibile che un principe di Salina potesse votare in favore della rivoluzione. Così in quel remoto paese venivano ancora designati i recenti mutamenti e interpretavano i ragionamenti di lui come uscite ironiche volte a ottenere un risultato pratico opposto a quello suggerito a parole. Questi pellegrini, ed erano i migliori, erano usciti dal suo studio ammiccando, per quanto il rispetto lo permettesse loro, orgogliosi di aver penetrato il senso delle parole principesche e fregandosi le mani per congratularsi della propria perspicacia proprio nell'istante in cui questa si era eclissata. Altri, invece, dopo averlo ascoltato, si allontanavano contristati, convinti che lui fosse un trasfuga o un mentecatto e più che mai decisi a non dargli retta e ad obbedire invece al proverbio millenario che esorta a preferire un male già noto a un bene non sperimentato. Per una decina almeno di persone egli aveva avuto l'impressione penosa, ma netta, che avrebbero votato no. Una minoranza esigua, certamente, ma non trascurabile nel piccolo elettorato Donna Fugasco. Ove poi si voglia considerare che le persone venute da lui rappresentavano soltanto il fiorfiore del paese e che qualche non convinto dovesse pur esserci fra quelle centinaia di elettori che non si erano neppur sognati di farsi vedere a palazzo, il principe aveva calcolato che la compattezza affermativa di Donna Fugata sarebbe stata variegata da una trentina di voti negativi. Il giorno del plebiscito era stato ventoso e coperto, e per le strade del paese si erano visti aggirarsi stanchi gruppetti di giovanotti con un cartellino recante tanto di sì infilato nel nastro del cappello. Fra le cartacce e i rifiuti sollevati dai turbini di vento cantavano alcune strofe della bella Gigugin, trasformate in nenia arabe, sorte cui deve soggiacere qualsiasi melodietta vivace che sia cantata in Sicilia. Si erano anche viste due o tre facce forestiere, cioè di girgenti, insediate nella taverna di Zumenico, dove decantavano le magnifiche sorti e progressive di una rinnovata Sicilia unita alla risorta Italia. Verso le 4 del pomeriggio il principe si era recato a votare, fiancheggiato a destra da padre Pirrone, a sinistra da don Onofrio Rotolo. Accigliato e pellichiaro procedeva cauto verso il municipio e spesso con le mani si proteggeva gli occhi per impedire che quel ventaccio, carico di tutte le schifezze raccolte per via, gli cagionasse quella congiuntivite cui era soggetto. E andava dicendo a padre Pirrone che senza vento l'aria sarebbe stata come uno stagno putrido, ma che anche le ventate risanatrici trascinavano con sé molte porcherie. Portava la stessa redingote nera con la quale 3 anni fa si era recato a Caserta per ossequiare quel povero re Ferdinando, che per fortuna sua era morto a tempo per non essere presente in questa giornata, flagellata da un vento impuro durante la quale si poneva il suggello alla sua insipienza. Ma era poi stata insipienza davvero? Allora tanto vale dire che chi soccombe al tifo muore per insipienza. Ricordò quel re affaccendato a dare corso a fiumi di cartacce inutili e ad un tratto si avvide quanto inconscio appello alla misericordia si fosse manifestato in quel volto antipatico. Questi pensieri erano sgradevoli come tutti quelli che ci fanno comprendere le cose troppo tardi e l'aspetto del principe, la sua figura, divennero tanto solenni e neri che sembrava seguisse un carro funebre invisibile. Soltanto la violenza con la quale i ciottolini della strada venivano schizzati via dall'urto rabbioso dei piedi rivelava i conflitti interni. È superfluo dire che il nastro della sua tuba era vergine di qualsiasi cartello, ma agli occhi di chi lo conoscesse un sì e un no alternati si inseguivano sulla lucentezza del feltro. Thank you. Giunto in un locale del municipio dove era il luogo di votazione, il principe fu sorpreso vedendo come tutti i membri del seggio si alzarono quando la sua statura riempì l'intera altezza della porta. Vennero messi da parte alcuni contadini arrivati prima e che volevano votare, e così, senza dover aspettare, don Fabrizio consegnò il proprio sì nelle patriottiche mani del sindaco Sedara. Padre Pirrone invece non votò affatto perché era stato attento a non farsi iscrivere come residente nel paese. Don Nofrio, lui, obbedendo agli ordini del principe, manifestò la propria monosillabica opinione sulla complicata questione italiana. Capolavoro di concisione che venne compiuto con la medesima buona grazia con la quale un bambino beve l'olio di ricino. Dopodiché tutti furono invitati a prendere un bicchierino su nello studio del sindaco, ma padre Pirrone e don Nofrio misero avanti buone ragioni di astinenza l'uno, di mal di pancia l'altro e rimasero da basso. Don Fabrizio dovette affrontare il rinfresco da solo. Dietro la scrivania di don Calogero fiammeggiava una oleografia di Garibaldi e di già una di Vittorio Emanuele, fortunatamente collocata a destra. Bell'uomo il primo, bruttissimo il secondo, affratellati però dal prodigioso rigoglio del loro pelame che quasi li mascherava. Su un tavolinetto vi era un piatto con biscotti anzianissimi che defecazioni di mosche li stavano a lutto e 12 bicchierini tozzi colmi di rosolio, 4 rossi, 4 verdi, 4 bianchi. Questi, in centro, ingenua simbolizzazione della nuova bandiera, che venò di un sorriso il rimorso del principe che scelse per sé il liquore bianco perché presumibilmente meno indigesto e non, come si volle dire, come tardivo omaggio al vessillo borbonico. Le 3 varietà di rosolio erano del resto egualmente zuccherose, attaccaticce e disgustevoli. Si ebbe il buon gusto di non brindare e comunque, come disse don Calogero, le grandi gioie sono mute. Venne mostrata a don Fabrizio una lettera delle autorità di Girgenti che annunziava ai laboriosi cittadini di Donna Fugata la concessione di un contributo di 2000 lire per la fognatura, opera che sarebbe stata completata entro il 1961, come assicurò il sindaco, inciampando in uno di quei lapsus dei quali Freud doveva spiegare il meccanismo molti decenni dopo. E la riunione si sciolse. Dopo che il seggio elettorale venne chiuso, gli scrutatori si posero all'opera e da notte fatta venne spalancato il balcone centrale del municipio e don Calogero si rese visibile con panciera tricolore e tutto, fiancheggiato da 2 ragazzini con candelabri accesi che peraltro il vento spense senza indugio. Alla folla invisibile nelle tenebre annunziò che a Donna Fugata il plebiscito aveva dato questi risultati: iscritti 515, votanti 512, sì 512, no 0. Dal fondo oscuro della piazza salirono applausi ed evviva. Dal balconcino di casa sua Angelica, insieme alla cameriera Funerea, batteva le belle mani rapaci. Vennero pronunziati discorsi. Aggettivi carichi di superlativi e di consonanti doppie rimbalzarono e si urtavano nel buio da una parete all'altra delle case. Nel tuonare dei mortaretti si spedirono messaggi al re, a quello nuovo e al generale. Qualche razzo tricolore si inerpicò dal paese al buio verso il cielo senza stelle. Alle 8 tutto era finito e non rimase che l'oscurità, come ogni altra sera, da sempre. We'll be right back.